Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Allora si diceva, tutte le mamme del mondo vorrebbero avere un figlio come Yuri. Benvenuti a Möbius, sentiamo i titoli e poi iniziamo. Come si volava ai tempi di Gagarin e quello che lui raccontava in TV. Ricordiamo i 50 anni del primo volo nello spazio. Nasce una nuova sezione di chimica al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Un robot che fa autoritratti, vestiti spray e la musica di Einaudi in 3D. Arte e scienza al Salone del Mobile. C'è una nuova particella e non si capisce che cosa sia. Ma nemmeno la fusione fredda è così chiara. Ragioniamo sulle stranezze e sulle trappole della scienza. Era il 12... Era il 12 aprile del 1961. 50 anni fa. 50 anni fa. Che cosa succedeva, Federico? Che praticamente il figlio che tutti vorrebbero, il fratello che tutti vorrebbero... Ecco, tu avresti... Io avrei voluto... piacere avere sì, un una faccia io. Così pulita, simpatica. Cagare. Era veramente un uomo che faceva... Fu scelto. Sì, fu scelto anche per questo. Sì, anche sì, per sì. Questo. Un uomo che fosse piaciuto a tutti. Ecco, cosa succede? Che in quel giorno, nel 12 aprile 1961, intorno alle 9 ora di Mosca, parte il primo uomo e va su in un volo che non durò neanche tanto, durò 108 minuti, ma che partì con una frase che ormai è diventata famosa, Poiecali o Paiecali che dir si voglia, che voleva dire via, si va. Paiecali. Il maggiore Yuri Gagarin, il primo cosmonauta del mondo, è rientrato nella capitale dell'Unione Sovietica. Ad attenderlo all'aeroporto di Mosca c'è Khrushchev in persona. Il rituale abbraccio del Presidente del Consiglio al vincitore dello spazio è salutato da un interminabile applauso. Gagarin sorride commosso dell'accoglienza trionfale che gli viene tributata. Anche i membri del governo e del partito lo abbracciano a lungo mentre la folla scandisce il nome del nuovo eroe dell'Unione Sovietica. E questo è un delizioso video che abbiamo ritrovato dall'archivio dell'Istituto Luce, datato appunto 12 o adesso non so bene 13 aprile 1961, in cui viene accolto da una folla veramente in ovazione. Sì, con un tappeto rosso che credo fosse lungo un chilometro, sul quale lui cammina da solo finché arriva a baciare Khrushchev. Allora si veramente un eroe nazionale. E infatti poi gli viene dedicato, diciamo, un parterre d'eccezione proprio sulla Piazza Rossa, in cui lui tiene un memorabile discorso. Sono immensamente felice che la mia cara terra natale sia stata la prima al mondo a compiere questo volo, la prima al mondo ad esplorare l'universo, il primo aeroplano, il primo Sputnik, la prima navicella spaziale e il primo volo spaziale. Questi sono i passi del grande percorso della mia patria verso la conoscenza dei segreti della natura. Chiara, per ragionare un po' su come si volava in quegli anni, abbiamo qui ospite questa sera, un ospite importante, è Simona Di Pippo. Buonasera Di Pippo. Buonasera a voi. Buonasera. Lei è stata responsabile fino a pochissimo tempo fa dei voli umani per l'Agenzia Spaziale Europea. Senta Di Pippo, le faccio sentire un breve inserto di una trasmissione televisiva di quegli anni in cui Gagarin dice alcune cose sul suo volo. Ora mi sento un po' imbarazzato nei confronti dei miei amici, dato che il mio volo è durato solo un'ora e 48 minuti, mentre ad esempio Andrea Nikolaev è stato nello spazio quasi 4 giorni, Pavel Popovich quasi 3 giorni, German Titov un giorno. Il mio volo è stato molto piccolo in rapporto a loro, ma qui ovviamente si trattava solo dell'inizio. Una prima esplorazione del cosmo. Non erano passati neanche 4 mesi dal mio volo che il nostro amico German Stepanovich Titov ha compiuto il suo viaggio senza precedenti. Ecco, Di Pippo, lui dice qualcosa che effettivamente è una sottolineatura importante, cioè io ho fatto 108 minuti di volo, subito dopo di me sono passati 4 mesi e c'è uno e che ha fatto... fatto subito meglio. Hanno fatto 4 giorni, il che vuol dire che insomma si buttava molto facilmente, si prendevano dei rischi oppure erano stati troppo cauti all'inizio? Ma chiaramente si era proprio all'inizio dell'era astronautica, quindi si tentava... di sperimentare, di bruciare anche le tappe. È anche vero che era un momento in cui c'era, diciamo, una battaglia tecnologica tra le due potenze, quindi si cercava in qualche modo, tra Stati Uniti e Unione Sovietica all'epoca, si cercava anche attraverso lo spazio in qualche modo di primeggiare. È anche vero che chiaramente si cercava di sperimentare le tecnologie il più velocemente possibile per poter raggiungere l'obiettivo. Subito dopo andarono in orbita anche gli americani, andarono in modo diverso? Sì, ancora oggi diciamo sia americani che russi hanno, come dire, un approccio diverso, ma alla fine diciamo l'obiettivo si raggiunge in modo comune e probabilmente, diciamo, anche se molte delle cose che si fanno oggi sono cambiate rispetto al passato, c'è comunque una continuità e anche un certo rituale che viene, come dire, continuato anche oggi. Però questa capsula in cui viaggiò Gagarin com'era? Abbastanza confortevole oppure invece era strettissima proprio perché eravamo agli inizi? Ma la capsula è praticamente sempre la stessa. È la stessa che ha usato, tanto per fare un esempio, Paolo Nespoli il 15 dicembre scorso quando è stato lanciato verso la Stazione Spaziale Internazionale. La grande differenza è che oggi la stessa capsula ospita 3 cosmonauti, mentre all'epoca di Gagarin, appunto, Gagarin era da solo e aveva un seggiolino iniettabile che peraltro gli consentì di arrivare senza capsula a terra perché appunto si lanciò col paracadute. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Riprendiamo con Simona Di Pippo, responsabile fino a poco tempo fa dei voli spaziali dell'Agenzia Spaziale Europea. Di Pippo, vorrei farle sentire brevissimi stralci delle conversazioni Terra-Gagarin in volo di quei minuti in cui avvenne appunto il primo volo. Sentiamo. Cedro qui Alba 1, la navicella sta procedendo bene, tutto è ok. Ricevuto Alba 1, vedo distintamente i fiumi, le loro ansie, si vedono benissimo, la visibilità è ottima, distinguo tutto molto chiaramente dal finestrino. Cedro qui Alba 1, tutto procede bene. Cedro qui Alba 1, come ti senti? Alba qui Cedro, le mie condizioni sono eccellenti, il volo continua, l'accelerazione di gravità è in aumento, ci sono vibrazioni, ma tutto è molto tollerabile. Queste erano le conversazioni Gagarin terra. Lei poco fa ci diceva anche che la capsula su cui volò Gagarin è sostanzialmente la stessa con cui si vola ancora oggi, quindi uno strumento consolidato, e quindi in fondo potremmo dire che le condizioni di volo, che potremmo immaginarci molto difficili allora, in realtà erano abbastanza simili a quelle odierne. Sì, diciamo abbastanza simili, chiaramente la tecnologia è un pochino migliorata, ma appunto la capsula è più o meno sempre la stessa, la rampa di lancio sul fronte russo è sempre lo stesso, il lanciatore è più o meno sempre lo stesso. Sul fronte americano la situazione si è evoluta, ma si è andati prima dalle capsule Apollo, poi lo shuttle e si tornerà alle capsule. Il futuro ormai è anche verso, come dire, una tecnologia più a portata anche di imprese commerciali, e quindi si aprirà, diciamo, l'accesso allo spazio, non voglio dire per tutti, ma sicuramente per molti di più. Ecco, allora Di Pippo, c'era un grande obiettivo storico, diciamo, per l'umanità, i primi uomini che conquistano lo spazio. Quel pionierismo adesso si è un po' perso o possiamo ancora avere dei grandi obiettivi da raggiungere? Ma sicuramente sta diventando sempre di più, diciamo, alla portata di imprese commerciali l'orbita bassa, ma le grandi agenzie spaziali tutte insieme, tra l'altro da qualche anno, stanno lavorando a un progetto globale di esplorazione, quindi esplorazione umana del sistema solare passando per la Luna verso Marte, ma anche verso altri obiettivi come per esempio delle missioni umane agli asteroidi. Quindi direi sicuramente inizierà presto una nuova fase pionieristica dove tutte le agenzie lavoreranno insieme. Primo obiettivo, una base sulla Luna. E credo che quando avremo il primo astronauta a cavallo di un asteroide forse rivivremo i tempi di Gagarin. Direi che quello che conta è anche che in qualche modo la Space Generation, quindi la generazione spaziale, ha bisogno anche di nuovi input, in qualche modo di visione, perché in realtà oggi sembra che quello che facciamo nello spazio sia semplice, in realtà non lo è assolutamente, perché ogni volta, soprattutto quando ci sono degli astronauti a bordo, bisogna essere molto precisi, bisogna guardare a tutti i minimi dettagli per poter avere delle missioni di successo, e quindi dà un po' l'impressione che sia routine, ma in realtà non lo è. Grazie di Pippo, buon lavoro. Grazie davvero. Grazie a voi. Oh, ci sono gli anniversari, come i 50 anni del primo volo umano nello spazio, ne abbiamo appena parlato, però poi ogni anno è un anno di qualcosa, spesso anche di più cose. Il 2011 è l'anno della chimica, e che fare per vivere quest'anno chimico? Beh, forse la cosa migliore è far fare alla gente degli esperimenti chimici. Barbara Gallavotti vi racconta dove e come si può fare ciò. Il 2011 è stato dichiarato dall'ONU Anno Internazionale della Chimica e naturalmente le iniziative si moltiplicano. Alcune settimane fa abbiamo parlato del Festival della Chimica che è stato organizzato a Palermo. A Milano, invece, il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ha appena inaugurato una nuova sezione dedicata naturalmente alla chimica. È realizzata in collaborazione con Federchimica Assobase e Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano. Questa sezione si va ad aggiungere a un laboratorio di chimica che è già presente nel museo da tempo. Ne parliamo con Fiorenzo Galli, direttore del museo. Buonasera. Buonasera. Allora, la chimica è forse tra le discipline scientifiche quella che più ci ritroviamo nella quotidianità e allo stesso tempo quella che ci fa più paura, della quale sospettiamo di più. Cominciamo dall'aspetto della quotidianità. Voi proprio su questo tema avete deciso di aprire, collocando la chimica in quattro sfondi che sono molto quotidiani: sono un mercato, un parco, la casa e la piscina. E quindi è vero che la chimica ci circonda? Beh sì, noi la chimica la mangiamo, la chimica ci sta addosso negli abiti, la chimica è nel luogo di lavoro, ci consente di vivere in modo, devo dire, forse ogni settimana, sicuramente ogni mese, diverso e tentativamente migliore rispetto al passato, quindi è assolutamente imprescindibile. Noi con questi quattro ambienti che ha appena ricordato, quindi il mercato, il parco, la casa e la piscina, abbiamo semplicemente isolato quattro del tutto che può essere ovviamente ripreso e scomposto per vedere quanto la chimica sia efficace, e l'abbiamo fatto con delle quinte, no, di introduzione o di fine, perché questa sezione ha un doppio possibile percorso: uno che parte dall'uso quotidiano e arriva alle molecole che rendono possibile l'utilizzazione, e l'altro esattamente il contrario, quindi che parte dalle molecole di base e arriva a vederne l'applicazione nella quotidianità. E questi sono dei bellissimi disegni fatti da un illustratore inglese che ha collaborato con noi, si chiama Robert Boyden, in qualche modo, in modo immaginifico, raffigura circa 130 possibili applicazioni quotidiane, ovviamente sono invece migliaia. Cominciamo da quella meno intuitiva, il parco. Ma cosa c'entra la chimica con il parco, che dovrebbe essere un ambiente selvatico il più possibile, no? Sì, ma oggi dai fertilizzanti che vengono utilizzati, dalle vernici se ne dobbiamo preservare, che ne so, le panchine in legno piuttosto che le staccionate, il tenere puliti i laghi, i laghetti con dei prodotti che impediscono la formazione di muffa o aggressione da parte di animali che non sono proprio i più simpatici da frequentare, anche lì ovviamente troviamo ovunque la possibilità, grazie alla chimica, di avere un quadro di riferimento più efficace. E però entriamo anche nell'aspetto inquietante, perché insomma tutta questa chimica nascosta è proprio la chimica che ci fa paura. Ma sì, in realtà qui si può e si deve avere giustamente non paura ma attenzione per tutto. La paura viene quando succedono delle catastrofi terribili o quando magari in modo preventivo bisogna avere attenzione, ed è esattamente quello che noi proviamo a fare, nel senso che tutto quello che si fa è potenzialmente rischioso, compreso affettarsi il salame con il coltello. Evidentemente ci vuole una forma di conoscenza, comprensione dei fatti, in modo di avere anche i giusti livelli di attenzione. Questo riguarda naturalmente i professionisti e gli addetti ai lavori, ma per giusto monitoraggio, per comprensione, riguardano anche i cittadini. Da un lato, appunto, per capire come sono i processi e come tra l'altro anche l'industria chimica si è notevolmente evoluta, perché l'industria chimica per sua stessa e propria stessa missione ha combinato, soprattutto negli anni 70, ha messo insieme delle situazioni molto problematiche e anche, voglio dire, più che problematiche, delle vere e proprie sciagure, come è stata ad esempio nel 76 la situazione del caso Seveso, no? Che tra l'altro ha generato a livello europeo una forma di reazione legislativa importante. Però da lì in poi l'industria chimica in generale e l'industria chimica di base, che è quella di cui noi parliamo nella circostanza della sezione nuova che andiamo ad inaugurare, evidentemente ha avuto una reazione positiva. Oggi sono più di 170 le industrie italiane che superano addirittura e volontariamente le prescrizioni di legge per quello che riguarda la sicurezza. Bisogna stare attenti che l'ostilità verso l'industria chimica non sia in realtà la parte di un'ostilità generica verso l'industria manifatturiera, in particolare quella italiana, che ha delle componenti fondamentali per la vita economica di tutti noi. L'industria in realtà ha in generale dei rischi, l'industria chimica ne ha di diversi, non voglio dire se maggiori o minori, sicuramente molto specifici, che però vengono affrontati e anche descritti tra l'altro nella sezione attraverso anche dei giochi interattivi che possono in qualche modo far capire meglio appunto sia quali sono sia quali vengono i modi per i quali vengono affrontati. Quanto è importante per un museo della scienza e della tecnologia la collaborazione con l'industria, al di là ovviamente dell'eventuale supporto economico all'allestimento stesso? È fondamentale per una ragione essenziale: un moderno, contemporaneo museo tecnico-scientifico non può non avere nella contemporaneità, quindi nella necessità di tenere aggiornate le attività che si svolgono verso il pubblico, di un supporto come quello industriale. L'industria c'è e esiste in quanto è sul mercato, quindi è contemporanea. L'industria ci fornisce risultati economici, ci consente però di avere al museo delle situazioni di assoluta contemporaneità con le quali dialogare verso il nostro pubblico. Grazie Fiorenzo Galli, buonasera. Buonasera. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Per vincere il libro bisogna rispondere rapidamente al nostro quiz che sta per arrivare. Soluzione al quiz che troverete, che sentirete nell'ultima parte della nostra trasmissione. Negli ultimi anni della sua vita, Nikola Tesla, il grande scienziato al quale si devono molte invenzioni nel campo dei dispositivi elettrici, a lui si devono per esempio i motori a corrente alternata, ecco, negli ultimi anni della sua vita Nikola Tesla sviluppò una singolare mania. Quale? Prima possibilità: era ossessionato dal numero 3, e ci scriverete 3. Oppure temeva in modo assolutamente esagerato di essere fulminato da una scarica elettrica, ci scriverete scarica. Terza e ultima possibilità: non voleva che in sua presenza fosse pronunciata la parola fulmine, perché era convinto che ciò avrebbe richiamato un fulmine appunto su di lui. E ci scriverete fulmine, sempre ci scriverete con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince, Era spaziale, la scoperta dello spazio dallo Sputnik al viaggio verso Marte, l'ha scritto Giovanni Caprara ed è edito da Mondadori Electa. E adesso, per incontrare i robot che fanno i ritratti e altre strane cose, esco dallo studio insieme a Chiara e andiamo al Salone del Mobile. In collaborazione con IBS.it. Scusi, posso farle una domanda? Cosa sta facendo? Sto disegnando cosa vedo quella vaso di girasole. I vasi del girasole di Van Gogh. Vuoi provare tu? Sì, io dai, proviamo. Allora, mi posiziono qui su un oculare dove sotto immagino ci sia un prisma e viene praticamente proiettato un vaso di girasoli, diciamo più o meno simili a quelli di Van Gogh, e io adesso sto cercando, insomma, in qualche modo di seguire il contorno, sì, per poi ovviamente dipingerlo. È un po' il principio che hanno usato, si crede, i grandi pittori italiani e non, cioè Caravaggio, Brunelleschi, insomma, nomi abbastanza importanti. che praticamente avevano scoperto un embrione del principio della camera oscura. Sì, praticamente. Proiettavano delle immagini su dei cartoni. E sì. Poi dopo li dipingevano. Loro non facevano così, come stai facendo tu. Sì, diciamo che questa è una trovata giapponese molto più semplice e forse più economica e più istantanea. Qui ci troviamo nell'ingresso dell'installazione Principia, proprio nel centro di Milano, in Piazza Duomo, in questa mostra che unisce un po' il concetto di scienza e arte per il Salone del Mobile di Milano. Vediamo di capire com'è un po' impostato tutta questa esposizione. E Massimiliano Di Liberto, ora che è il produttore della mostra, ci spiega i principi che stanno dietro a questi enormi glu qui in Piazza Duomo. Questo è il 50° anno della fondazione di Cosmit. Cosmit ha voluto dare un segnale alla città di Milano relativo a quali linguaggi il nostro futuro ci riserva. Questa mostra parla di 8 principi scientifici interpretati, spiegati, modificati, utilizzati soprattutto da una serie di artisti. Ora ci addentriamo a scoprire appunto quali sono le installazioni di questi artisti, quali sono intanto i principi che stanno dietro. In linea di massima sono 8, partono dalle nanoscienze, attraversano quello che è l'apparato genomico, parliamo della second nature, la cosiddetta second nature, la modificazione della realtà secondo dei principi di fatto artificiali, i principi della prospettiva, attraversando quello che sono poi le scienze più trasversali, cioè quindi la chimica con uno stilista che ha inventato questi, Manel Torres, che ha inventato questi vestiti spray molto interessanti e anche molto divertenti. Tanta tecnologia, allora addentriamoci e subito vediamo un robot che mi fa un ritratto. Sì, il Robot Lab è un'invenzione di 3 giovani tedeschi. Si compone di fatto in un'installazione che comprende una telecamera applicata al braccio robotico, una zona in cui lo spettatore si siede, attiva un sensore, il robot lo sente, punta il braccio, gli fa una fotografia. La fotografia viene successivamente interpretata e modificata secondo un criterio software random che dà un impatto artistico a quello che è il successivo disegno da parte del braccio robotizzato. Il braccio robotizzato definisce un disegno di massima che tutte le volte è diverso, quindi è di fatto un ibridismo un po' particolare tra quello che è un impatto artistico e una tecnologia applicata alla scienza della robotica. Una cosa straordinaria è che il robot, orgoglioso del suo lavoro, poi lo mostra al pubblico, insomma fa il giro. Il braccio robotizzato, dopo aver eseguito il ritratto, lo afferra, lo mostra a tutti, lo rimette in posizione, poi afferra un cancellino e lo cancella di fatto. Nessuno può averlo. È stato eseguito anche il ritratto del presidente della regione Formigoni e anche del sindaco Moratti, però non hanno potuto avere il loro ritratto. E anche il mio non lo porto a casa. Adesso io, guardando il video che ci dà le istruzioni, con uno spray ti posso coprire tutta dal collo in giù. Ah, meraviglioso, body painting. Sì, praticamente una roba così. In effetti, cosa vediamo nel video? Vediamo uno spruzzo che percorre tutto il corpo, c'è un signore. Possiamo proprio immaginarci uno spruzzo bianco come materiale che esce da un estintore. Una roba di questo genere, esatto. Però poi cosa succede? Miracolosamente questa cosa si rapprende. Si rapprende, sì, diventa proprio tessuto non tessuto, una sorta di cotone ragnatelato. Sì, cioè non è un gesso. No, è molto morbido. Al tatto sembra proprio una maglietta di cotone che si rapprende e poi si riesce addirittura a sfilare, a lavare, a pitturare e a rimettere. Quindi praticamente è una maglietta proprio dalla tua taglia, perché è proprio la mia, cioè non potrebbe entrare a nessun altro. Ecco, diciamo che gli utilizzi possono essere vari, perché qui c'è un bellissimo copripoltrona, un bellissimo cappellino, cioè ognuno potrebbe utilizzarlo come vuole. Secondo me il loro uso migliore è nelle scenografie dei film dell'orrore, per creare un po' quelle ragnatele che fanno un po' vecchio, ecco. Sono qui adesso in compagnia di un sound designer, cioè un designer del suono, e entro in una stanza tutta buia dove sento una musica bellissima di niente proprio di meno che Ludovico Einaudi. E che cosa stiamo ascoltando qui dentro? Allora, sentiamo una musica spazializzata con un vero sistema 3D, vuol dire le vere tre dimensioni, sia sul piano orizzontale 360 gradi, ma anche sul piano verticale, quindi sentiamo anche dei suoni che attraversano la nostra testa. Oltre a Ludovico Einaudi ha prestato, diciamo, il suo lavoro, la sua arte, anche Sir Bob Cornelius Rifo, che è per i più giovani un affermato DJ, si ha proprio l'effetto di entrare quasi nel sound, nella musica di questi artisti. Certo, questa è l'intenzione di dare, diciamo, la dimensione spaziale della musica, quindi la loro dimensione, la sua diciamo espansione nello spazio. Ci può dire qualcosa su che tipo di tecnologia sta dietro a queste pareti nere, perché siamo praticamente al buio qui? Sì, siamo al buio perché non vorrei ingannare, diciamo, l'ascolto da un aspetto visivo, ma come succede nella realtà? Diciamo, il suono ci avvolge sempre a 360 gradi, siamo fatti per ascoltare a 360 gradi, il nostro cervello analizza tutti i suoni che le arrivano e li piazza nel punto giusto, possibilmente, quindi anche la tecnologia deve essere all'altezza di fare questo. Per ora, diciamo, l'unica tecnologia che c'era per ora possibile era la cosiddetta olofonia, che si ascolta solo in cuffia. Invece io ho cercato e trovato 3 anni fa questa tecnologia che fa qualcosa di molto simile, un tale avvolgimento con una qualità e una precisione nel disegnare traiettorie che è impressionante. Si chiama Wavefield Synthesis, sarebbe, diciamo, la sintesi del campo sonoro. Infatti rispetto alle tradizionali tecnologie come lo stereo, per spiegarlo in termini semplici, invece di usare per esempio 2 segnali, un canale sinistro e destro, per creare delle illusioni di posizioni anche intermedie tra le casse, qui viene creato fisicamente, generato il campo sonoro generato da una o più sorgenti sonore. Quindi lavorano tutti gli altoparlanti, per esempio, che sono sul frontale della sala, che invece circonda completamente gli spettatori o ascoltatori, da 24 casse acustiche. Escono contemporaneamente, diciamo, esce lo stesso suono, solo modificato da un processore dedicato che gli dà una certa curvatura che corrisponde alla curvatura di una sorgente reale, al fronte sonoro che esce da una sorgente reale, e quindi ci dà la piena illusione di trovarci di fronte a una sorgente reale e non da un suono che esce da un altoparlante. Mi faccio riprendere da una webcam. La webcam manda la mia immagine e lo chiedo a Mara Salvadori, che cura questa installazione. Doveva finire la mia immagine? Allora, l'immagine ripresa dalla webcam è praticamente una fotografia che noi realizziamo qui direttamente nello stand presso Piazza Duomo. Noi poi con la fotografia ne ricaviamo una sagoma bidimensionale, con la foto soltanto del viso. Questa sagoma viene inviata al laboratorio di One Off, che è un'azienda di prototipazione e modellismo. Ne ricaverà poi queste sagome in scala 1 a 1, quindi in scala reale, in 2 materiali differenti, in legno e in plexiglass, sia nero che trasparente. E infatti qua di fianco a me ci sono 4-5 persone a grandezza naturale. Lì c'è un'installazione, vediamo in un video che spiega come funziona questo... tutto, c'è un'installazione con un laser, credo, no? Una specie di pantografo laser. Sì, questo che vediamo direttamente live sul proiettore che noi abbiamo qui a grandezza reale è praticamente la macchina taglio laser che realizza queste sagome in grandezza naturale. Ne fa un taglio per quanto riguarda la sagoma e un'immagine raster per quanto riguarda la fotografia del viso. C'è un'azienda che fa questo tipo di attività professionalmente, immagino per ragioni tecniche. Qui c'è una congiunzione tra un'azienda, appunto, che produce tecnologia applicata per usi industriali e però un gioco artistico. Sì, questa mostra vuole proprio evidenziare come si può creare una comunità che sia interessata a una tecnologia e far diventare questa tecnologia personalizzabile e più umanamente sociale, divertente, diciamo. Poi dopo uno si mette in casa una sagoma, come può usarla? Diciamo che potrebbe essere un bel ricordo del momento in cui è stata scattata la foto, quindi anche negli anni a venire potrebbe essere divertente rivedersi proprio in formato reale, non soltanto in una fotografia, ecco. Però potrebbe anche usarla come appendiabiti, abbastanza comodo. Sì, molte persone hanno già pensato di farne questo uso. Vi segnalo che la mostra Principi, Arte e Scienza dura di più nel Salone del Mobile, sarà in Piazza del Duomo a Milano fino al 27 di questo mese. Vi segnalo anche che sul nostro sito www.moebiusonline.eu ci saranno delle immagini, troverete delle immagini delle cose che abbiamo raccontato. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ora comincerò a parlarvi di una particella strana e continueremo con cose strane perché dobbiamo ancora capire qualcosa di importante sulla vicenda della fusione fredda, che strana è. Mi accompagna in questo percorso Stefano Bagnasco. Buonasera Bagnasco. Buonasera, buonasera a tutti. Fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma anche un membro del CICAP, che insomma ne abbiamo parlato altre volte in trasmissione, è il nostro guardiano in Italia delle frodi scientifiche, delle inesattezze scientifiche, anche quelle che appaiono sui media. Senta Bagnasco, allora, ci è giunta notizia questa settimana dagli Stati Uniti e dai grandi laboratori Fermilab vicino a Chicago di una scoperta di una particella. Io adesso le chiederei di che cosa si tratta, probabilmente lei mi dice sarebbe bello saperlo. È esattamente così, non è per niente chiaro cosa possa essere. In questo caso si tratta di un inizio di scoperta, di un indizio di scoperta. In questi casi si fanno delle misure di una qualche quantità, poi si toglie tutti i fenomeni noti che potrebbero spiegare questa cosa. E se rimane qualche cosa, se rimane qualche evento, vuol dire che lì ci potrebbe essere qualcosa di nuovo. Mm. Ed è esattamente quello che è successo a Fermilab. Hanno misurato una particolare configurazione delle particelle, degli stati finali di eventi di collisione, e hanno trovato che ci sono alcune di un certo eccesso in una certa regione di massa che non sanno spiegare, che non corrisponde a nessuna particella nota. Non abbiamo nessuna teoria che ci spiega che lì ci debba essere qualcosa, ci suggerisca che lì ci debba essere qualcosa, e anzi le teorie che conosciamo, il modello standard, ci dice che lì non ci dovrebbe essere niente. Ci aspettiamo che l'EHC, che è il nuovo acceleratore al CERN, che misurerà anche in quella regione di energia, vada a verificare se c'è davvero qualcosa. Però loro dicono è una particella, si dice una particella, ma potrebbe essere anche qualcos'altro che non è una particella? Sì, quello che uno vede è una particella. Una cosa che potrebbe essere è un problema nel software che ricostruisce gli eventi, un problema nella simulazione del fondo, un qualche fenomeno che non conosciamo e che quindi non conosciamo abbastanza bene, che quindi non abbiamo modellizzato sufficientemente bene nell'analisi che è stata fatta dei dati. È abbastanza divertente questa cosa, perché l'acceleratore qui è stato visto, che è il Tevatron a Fermilab, chiuderà. Sì. Nel corso di quest'anno. Sì. E questo è esattamente la stessa cosa che è successo quando stava per chiudere l'EPA, l'acceleratore a Ginevra, quello precedente di LHC. Doveva chiudere molto rapidamente perché dovevano cominciare appunto i lavori di costruzione dell'LHC. E proprio poco prima che chiudesse hanno pubblicato una cosa molto simile a questa, cioè una possibile traccia. Quella volta lì era probabilmente, loro dicevano che avrebbe potuto essere il bosone di Higgs, e poi non c'è stata sufficiente evidenza di questa cosa per fare andare avanti. Oh, senta Bagnasco, quelli che hanno fatto appunto le prime dichiarazioni su questa particella hanno detto non sappiamo che cos'è, ma certamente qualunque spiegazione al momento sembra quanto mai estrosa, strana, singolare. Allora andiamo sulla fusione fredda. Lei poco tempo fa ha detto se è un imbroglio, questo imbroglio bisogna brevettarlo perché è certamente geniale. In effetti, vedendo questa apparecchiatura e quello che succede, cioè che uno gli mette da una parte 10 e dall'altra esce 150, per dirla soltanto in numeri, beh, insomma, la cosa è abbastanza sorprendente. Le chiedo, nella storia della scienza ci sono stati degli altri momenti nei quali delle cose che si sono rivelate tremendamente importanti dopo un po' di tempo sono iniziate malissimo e assolutamente non comprese? Faccio un esempio fra tutti: noi oggi sappiamo come funziona il nostro pianeta, la nostra Terra sotto, con la tettonica a zolle, sul fatto che i continenti viaggiano su delle placche che si intersecano. fino a non molto tempo fa, nei primi anni 60, questa ipotesi qui, che era stata avanzata da molti, riceveva dagli esperti dichiarazioni del tipo: sì, è un buon argomento per parlarne al bar, ma non c'entra la scienza. Cos'è che allora possiamo dire anche rispetto appunto allo stato di cose attuale per quanto riguarda la fusione fredda? Quello di cui stiamo parlando chiaramente è l'esperimento di Bologna, sì. Di Bologna. Bisogna dire che questa cosa nasce tra i peggiori auspici, in un certo senso, perché la fusione fredda è una cosa che è nata alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, con gli annunci di Fleischmann e Pons, e poi non se n'è più fatto niente, nel senso che questi esperimenti erano molto difficili da replicare, non si riusciva a rivedere la cosa. Questi hanno pubblicato delle misure che chiaramente non avevano potuto fare, probabilmente sotto pressione dell'ufficio stampa della loro università, perché fu così. E alla fine si è risolto tutto, a quanto pare, in una grossa bolla, anche se ci fosse stato qualcosa, insomma, non si è riusciti a vederlo. E quindi questo è un antenato poco promettente per questo. È partita male. Alla fine viene fuori questo ingegner Rossi, che fa questa sua macchina, e anche qui ci sono diversi problemi. Non si riesce a fare le prove come si vuole, perché lui ha un brevetto in ballo, non vuole dire qual è il suo segreto, non lascia che i fisici facciano le misure esattamente nel modo in cui vogliono. Quello che manca per adesso è ancora una vera verifica sperimentale. Questo fa sì che diciamo così, quello che dicevo prima, se è un trucco estremamente intelligente, estremamente difficile da localizzare, perché non riusciamo a farci venire in mente un sistema per che faccia le stesse cose, tutti quei kilowatt sotto il naso dei ricercatori senza che questi se ne accorgano. D'altronde, fare le prove in queste condizioni in cui i fisici possono misurare soltanto quello che gli è permesso, fa sì che i fisici magari possano evitare i trucchi che gli vengono in mente, ma magari c'è qualche trucco che non ci viene in mente, o trucco, adesso sto usando il termine trucco, ma insomma qualche cosa che non ci viene in mente, che ci sfugge e che può essere la spiegazione del fenomeno. È chiaro che qualunque cosa sia alla base di questo procedimento, di questo marchingegno, non sembra essere nulla, se funziona come è supposto funzionare, non sembra essere nulla di noto alla scienza. Quindi se è genuina la produzione di energia, è sicuramente un qualcosa di completamente nuovo. Ma anche il personaggio un po' contraddittorio, molti oggi lo attaccano per anche certe sue storie precedenti, nelle quali ci furono dichiarazioni avventate e poi infondate. Molti dicono di ricordare che Andrea Rossi tempo fa fu al centro di un processo per truffa, ma fu anche assolto. E allora che si fa? Perché non si può continuare a ricordare che una persona è stata in tribunale. Questo tipo di personaggio si è incontrato altre volte nella scienza, per esempio Nikola Tesla, che è un personaggio al quale dobbiamo addirittura i motori a corrente alternata, però una certa serie di frodi nella sua vita, nella sua carriera, li fece, no? Sì, invenzioni mai finite che non si sapeva se funzionavano, poi era un personaggio molto strano. In realtà però in questo caso particolare c'è una differenza fondamentale, secondo me, e cioè che l'apparecchio almeno apparentemente è lì pronto per essere misurato. Si tratta soltanto di fare le verifiche sperimentali, e in queste cose la verifica sperimentale indipendente, ben fatta da parte di scienziati appunto indipendenti, è il santo graal, è quello che ci garantisce che non ci siano frodi, che non ci siano errori. E io so che voi come CICAP state per prendere una posizione molto netta su questo, una richiesta forte che fate. Sì, la nostra richiesta sarà: quello che è successo finora sono tutti esperimenti preliminari, come d'altronde anche i fisici che li hanno portati avanti ammettono chiaramente, sono risultati preliminari che non sono secondo noi sufficienti a dimostrare una cosa che va così al di là delle cose che conosciamo, che richiede delle prove veramente forti. Quindi quello che chiediamo è una verifica, un esperimento, diciamo così, in campo neutro, in campo completamente indipendente, in cui progettato e fatto ed eseguito dai fisici a modo loro, nei loro laboratori, con strumenti loro, e progettato da zero per essere sicuri di non prendere cantonate. Nel quiz che lei non ha sentito, noi abbiamo chiesto qual era la mania di Tesla. Lei probabilmente la sa. Ne aveva tante. Secondo me pensate a quella del numero 3. Voleva sempre la stanza dell'albergo che fosse un multiplo di 3, tutte le cose. Questa? Sì, è questa qua. Girava intorno a un edificio quando doveva entrarvi almeno 3 volte. Aveva proprio la psicosi del numero 3. Grazie Bagnasco e buon lavoro, e attendiamo questi esperimenti cruciali. Anche noi, e saremmo molto interessati anche a partecipare se l'occasione. Eh beh, certo. Grazie mille, buonasera. Grazie, arrivederci Bagnasco. Da qualche mese, in particolare nelle ultime settimane, si discute degli incentivi a tutto ciò che è applicazione, messa in campo di energie alternative. E c'è il rischio reale che questi incentivi vengano eliminati. Oh, dunque, io ho detto il rischio, ma rischio oppure cosa buona? C'è chi sostiene che in Italia, e probabilmente anche in altre parti, in altri paesi, l'investimento, la presenza di questi incentivi abbia un po' drogato il mercato. Con Gianluca Lancellotti di Enerventi. Buonasera Lancellotti. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Una azienda Enerventi che lavora in questo mercato e che indubbiamente della presenza o meno di incentivi risente. Ecco, a lei io chiedo come stanno, secondo l'opinione appunto di un'impresa che lavora in questo campo, come stanno realmente le cose? Ma le cose stanno che effettivamente c'è stata un'accelerazione nell'installazione di potenza fotovoltaica che destava qualche dubbio a chiunque, per cui l'intervento del governo, a nostro modo di vedere, è un intervento che potrebbe andare nella giusta direzione. Il condizionale è d'obbligo perché effettivamente occorre fare un distinguo importante tra chi si è improvvisato nel settore diversificando da, ad esempio, settore delle costruzioni o altro settore industriale e chi invece fa questo mestiere concentrandosi su i piccoli impianti installati sugli tetti, sugli edifici già esistenti e quindi cercando di generare un impatto positivo in termini di occupazione specializzata, in termini di vantaggio agli utilizzatori e di frammentazione di questo vantaggio nei confronti di migliaia di famiglie. Quindi una differenza fra installazioni e installazioni, lei fa, va bene. Esatto. Anche nel question time il ministro Romani in Parlamento ha riferito di questa distinzione esplicitando proprio l'interesse del governo nel tappezzare i tetti dei nostri cittadini e quelle delle strutture pubbliche di impianti fotovoltaici. Non vi è dubbio infatti che, citando proprio dati ufficiali Istat, il 38% dei 9 milioni di edifici di abitazione monofamiliare, bifamiliare e condomini in Italia potrebbero essere idonei per ospitare un impianto fotovoltaico. Questo significherebbe un impatto che riguarderebbe 3 milioni e mezzo di famiglie, di edifici, e per circa 14 gigawatt complessivi, cioè stiamo parlando di una potenza che sostanzialmente corrisponderebbe a quella di qualche reattore nucleare e di più di qualche decina di centrale di tipo tradizionale a gas, per cui l'impatto potrebbe essere veramente importante. Si tratta di una tecnologia che sicuramente riesce ad incentivi attuali a garantire a una famiglia, al netto di tutti i costi e gli investimenti, un guadagno nei 20 anni tra i 6 e gli 8 mila euro. Si tratta poi di un modo diverso di approcciare il mercato fotovoltaico che consente di eliminare le cosiddette perdite di rete, perché in questo caso si avrebbe coincidenza tra punto di prelievo, quindi di consumo, e punto di produzione. Evidentemente verrebbe neutralizzata la rete e quindi tutta l'energia che solitamente viene dissipata nella rete. Sappiamo che oggi nelle tariffe dell'autorità è prevista una valorizzazione delle perdite di rete pari all'11% di tutta l'energia consumata. Quindi stiamo parlando di qualcosa di importante. Stiamo parlando poi di un impatto occupazionale, come dicevo prima, un po' differente. Lei sa che quando si va ad installare su un terreno, evidentemente si utilizza anche manodopera poco specializzata, i cosiddetti posatori di pannelli. Quando si sale su un edificio si deve rispettare una serie di norme sulla sicurezza del lavoro, avere una specializzazione spinta nelle opere di carpenteria e quelle elettriche e elettrotecniche, per cui l'impatto evidentemente di medio-lungo periodo sarebbe nella direzione di manodopera specializzata, e parlo di impatto di medio-lungo periodo perché evidentemente gli impianti realizzati sui edifici hanno bisogno di manutenzione per tutti gli anni di utilizzo e di produzione dell'impianto. Quindi voi siete favorevoli a incentivi che non escano a pioggia, ma che invece vadano verso installazioni per case unifamiliari o condomini. Esattamente, proprio così, è l'unico compromesso che si può trovare tra l'interesse di un settore di punta come quello del fotovoltaico e gli interessi delle famiglie e dei consumatori italiani. Grazie Lancellotti. La ringrazio. Cosa posso dirvi in chiusura di puntata? Posso dirvi che la prossima settimana, se questa ci ha visto nello spazio, andremo invece in elicottero e poi parleremo dei 200.000 cavalli che percorrevano le strade di New York alla fine del 1800. Buona serata a tutti e a tutte e ci sentiamo fra 7 giorni.